cuore al tuo cuor, bambina, dammi del tu, non ti chiedo di più. L'orchestra suona lo slò, che manda in estasi fuor, e la tua bocca un sospiro, come per dire. Stringimi a te, io son già la tua piccola e tu sei mio, ecco perché ci daremo del tu. Fammi sognare con te qui sul tuo cuore, altro non chiedo più. Dammi del tu così. Siete belle in questa luce tutta d'oro, siete proprio quella che sognava sempre il cuore. Quanto vi invocavo, ma poi mi svegliavo e non vi trovavo più. Ora il cuor vi stringo, ma non creda agli occhi miei. Se non foste un sogno, io d'amor vi parlerei. Permettete almeno, mentre danzeremo, ch'io vi possa dar del tu. Sul tuo cuore altro non chiedo più.